piatti a testa. Il colpo in canna, cominci lei. Io? Lo punti da solo. Oh, mi scusi. Pratico, no? Oh, io... Oh, no, non è pratico. Non è molto... No. Scusi, signor Duca, io intanto... Lei, Baccherozzi, preferirei... dove va? No, no, segni punti, tiri piatti. Filini, pronto a sparare. Piatto? Pronto piatto. Vadi. Piatto? Mancato! Mi spiace, mancato. Io... Gli ho detto che sono dolente, ecco. Un altro colpo, pronto? Sì, ecco. Pronto. Piatto? Piatto? Mancato! Mancato! Come? Mancato. Scrivo proprio mancato, eh? Sì. Sicuro. Adesso Bambozzi spari lei. Sì, tocca lei, su. No, no, no, guardi, io preferisco... È suo, prende il fucile, tocca a lei. Tu, ragioniere, dia qui, dia me lo scorto. Forza, Filini, piatto! Sì, ecco, pronto? Pronto, Cagnacci? Pronto. Piatto! Piatto! Via, fate sparire tutto! Via, presto, liamoci di qui! Via, nascondete tutto, saltiamo! Passetta, il nostro dizionario rock diventa sempre più grosso grazie all'apporto culturale di Roberto Fricantoni che gongola. Ah, sì, sì, sì, lo ammetto, sono lusingato. Infatti, step by step, sì, senta qua, sì, le proprietà di linguaggio anglosassone. Il dizionario è sempre più grosso. Infatti. Credo che lei abbia voglia di raccontarci, di descriverci, di dipingerci la parola rock di quest'oggi. Si sbaglia, non ne ho assolutamente voglia. Fantastico, e allora proseguiamo con la musica. Aspetti, si fermi perché ho giusto qui eccola, ci ha ripensato. Un idioma mascherina, fortissimo. La parola di quest'oggi è un idioma fortissimo. Caccola. Eccala, bene, complimenti per la scelta, sì. Allora sappia, la ringrazio. Prego. Che vengono comunemente chiamate caccole gli escrementi di piccole dimensioni, sì, prodotti dall'organismo umano e secreti. Sì. Secreti, vale, certo, bene, secreti, scusi se sono un po' troppo tecnico. Lo faccio. Dal naso, dalle orecchie e dagli occhi. Bene. Ecco, sa che secrezioni del naso si, sì, chiamano appunto caccole, quelle degli occhi cispe, sì, e quelle delle orecchie cerume. Oh, bene. Ecco, la consistenza può variare in funzione del grado di idratazione e può essere collosa e a volte friabile. Ah, bene. Che fragranza, sì, che fragranza. Bene. Il termine caccola, tra l'altro, è stato utilizzato, non vorrei tirare l'acqua al mio mulino, non la tiri, è stato utilizzato anche in musica. E vorrei ricordare a tutti la celebre canzone degli Schiantos che faceva "le caccole del naso tu ci devi fare caso". Ricordo, sì, sì. Grande, ricordo. Rima, una rima baciata di eccezionale, sì, vigore. Bene. Nell'eventualità che l'autocitazione comporti uno screditamento di questa rubrica, vorrei proporvi altri esempi. La prego. Un tipico soprannome in dialetto romanesco è Ercaccola. Sì, sì. Tale individuo è anche citato nella freddura "hanno preso Ercaccola, è stata una soffiata". Bene, ottimo. Mister Caccolen era anche il personaggio di un libro di Susanna Tamaro. Ci tenevo, bene, a concludere con una citazione letteraria di valore. Molto bene, avrei tanto voluto saperlo e grazie a lei ora lo so. Grazie. Prego, mi fa dare un'occhiata alle sue caccole? No. So bright, don't ovviamente i Deep Purple di Black Knight nella diretta di Pane e Burro Rock and Roll di quest'oggi, puntata 123, il 6 di novembre. Vi tireremo per le orecchie fino alle 9 del mattino, tentando di gestire anche questa seconda ora di diretta. Ci siamo già tolti di torno le parole ribelli, fricche di là in redazione che prepara i compleanni di quest'oggi. Vediamo di fare un po' di saluti a Firenze, il buon Walter, un altro SMS firmato Davide Bar. Come mai, scrive, qui al bar, quando ci vantiamo di avere la patente davvero rocker, ne abbiamo ben tre, i clienti ci guardano come se fossimo dei pazzi. Dobbiamo tener duro? Eh beh, Davide, puoi dirlo forte. La nicchia vincerà, ricordatelo. Un abbraccio al patentato 110. Questo lo leggo dopo perché... perché devo dirlo a Tino. Abbiamo Kate, un'amica di Pisa, che ha portato in macchina suo fratello al lavoro. Suo fratello ascolta Mango. Ha detto: ragazzi, ci provo, gli faccio ascoltare Pane, Burro, Rock and Roll, vediamo come la prende. Però ci confessa che un quarto d'ora di tragitto effettivamente era troppo poco. Dice: avevo anche pensato di sbagliare strada, ma anch'io devo andare al lavoro, ci proverò ancora. Grazie Kate. Questo per far sapere al patentato 147, che oggi ha lanciato l'appello di fare delle conversioni in diretta. Un uomo che corre! L'ha visto? Eccolo là. Ma è troppo tardi adesso. L'uomo che corre io lo voglio alle 7, non a quest'ora. Va bene, torno sul pezzo. Sab da Firenze, la nostra pulmista fiorentina, che prima o poi voglio in diretta per gli addobbi natalizi della città toscana, ha una proposta. Invece dei testi sacri potreste leggere i brani di heavy metal in latino. Fortuna che Frick non sta sentendo, perché se no me la fa subito. Non scrivetele queste cose, dai ragazzi, tenetele per voi. Da Firenze intanto nessun addobbio natalizio, mentre decine sono le segnalazioni degli addobbi natalizi di Milano. E noi ce l'abbiamo, un amico che gira per le città meneghine con il suo taxi, intento nel suo lavoro, ma soprattutto intento nello scrutare gli addobbi natalizi da segnalare a Pane, Burro e Rock and Roll. Lo rintracciamo, redazione? Tino il tazzista? Ma sì, dai. Intanto, Doobie Brothers! We'll be right back. Nora. No, molto bene. Frick Antoni, la prego, passin, torni Frick. Passin passetto, Frick se n'è andato. Ha lasciato il passo. E non tornerà, ha lasciato il posto al grande Mike. Fiorello trema perché il nostro imitatore di Mike Buongiorno ti spacca in due. Cosa vuole ricordarci? Voglio ricordare i nati del 6 novembre. Un bel applauso. Sì, da chi partiamo di bello? Dal 1931, il 6 di novembre nasceva Mike, ma no, Nichols. No, Mike Nichols, regista statunitense. Posso ricordare un po' di film? Certamente, Il laureato del 1967. Una donna in carriera. O anche A proposito di Henry. No, A proposito di Henry. E chiudiamo e Closer. Con Closer, esatto, perfetto. Passiamo a un altro compleanno. Il 6 novembre del 56 nasceva Mango. Lei ha mai avuto l'onore di conoscere Mango? Mango Berniende. No, sì, buonanotte. Mango Berniende. Mango Brobrio. È venuta benissimo. Grande Baduga. 1970 nasceva Ethan Hawke, scrittore e attore statunitense. Qualche film, via. Allora, sì. Abbiamo di Ethan Hawke, sì, sì. Alive. Sopravvissuti, se Bravissimo. Me lo ricordo. Giovani, carini e disoccupati. Reality Bites. Esatto. La realtà mozzica. Sì. Gattaca. No, Gattaca. Gattaca. La porta dell'universo. Sì. È tratto dall'omonimo romanzo che prende le mosse dalla città di Gattaca. Sì, bravo, complimenti. Nel New Alabama, Jersey. Maestro, chiudiamo i compleanni. Benissimo con... No, no, chiudiamo i compleanni. Passo e chiudo. What it means to lose control. la nicchia vincerà. Proseguiamo la nostra trasmissione mattutina, pane, burro e rock and roll, con radioascoltatori che non sono semplici radioascoltatori, sono occhi e orecchi puntati sul territorio. Quest'oggi ne abbiamo già sentiti alcuni, tra l'altro tutti di Milano. Io devo sgridare un po' i fedeli radioascoltatori toscani, gli amici liguri e gli amici emiliani che ascoltano Rock FM, commentano via SMS, ma non si tuffano in prima linea come fanno gli altri. L'appello, insomma, iscrivetevi alle nostre rubriche al 335-100-7777. Decine, dicevo, le segnalazioni di addobbi natalizi che continuano ad arrivare da Milano. Noi ce l'abbiamo, un amico che gira con il suo taxi per Milano e anziché accompagnando i clienti, quindi svolgendo il suo lavoro, aiuta anche pane, burro e rock and roll. Bentornato Tino. Ciao, ciao a tutti, viva la nicchia. Senti, anche oggi hai dei clienti? Certo, anche oggi, meno male. Li hai già avvisati? Sì, hanno accordato il tutto. Ma cosa gli chiedi tu? Posso fare un... Sì, chiedo se non disturba che io faccio un intervento in diretta. In con l'auricolare, ricordiamo. Rigorosamente. Quindi adesso te la stai girando per accompagnarli chissà dove. Vabbè. Esatto. Gli consigli sempre di ascoltare Rock FM? Assolutamente. Tra l'altro l'ascolto è forzato, immagino, sul taxi. Sì, certamente. Allora, ti faccio due segnalazioni veloci. La prima che rintraccio è addobbi natalizi in via Sarpi e alla Rinascente di Viale Certosa, Milano. Bene, prendo nota, andrò a controllare. L'altro invece, questo te lo gestisci tu, perché io non gli voglio rispondere, per pane, burro e rock and roll, posso distruggere tutti i festoni natalizi che anche qui a Paderno Dugnano sono comparsi? Mi beccherò una denuncia? Se mi metti in contatto gli vado a dare una mano. Oh, dai Tino, gli ascoltatori violenti, molto rock però, bravo, mi piace. Senti, andiamo con la segnalazione di quest'oggi. Ricordiamo che non abbiamo ancora preso una decisione fissa sul Natale. Sì? Tu mi sembra di sì invece, l'ho capito. Sì, sì, no, io il Natale non lo sopporto proprio, guarda, voterei per l'abolizione. Beh, intanto io annoto la tua presa di posizione, poi vediamo cosa dicono anche gli altri, però non possiamo non occuparci degli addobbi. Esatto. Che è successo in questi giorni? Dunque, in questi giorni è successo che sono andato in una delle note multisala cinematografiche di Milano, non cito per non fare pubblicità, ma quella grossa grossa, insomma. Quella grossa. Ecco. E praticamente hanno allestito, addobbato e acceso un albero di sarà almeno 4-5 metri. Alla faccia! Sì, sì, una cosa gigante. Poi oltretutto sul muro del cinema ci sono anche lì tutte le decorazioni accese, fiocchetti, trenne varie. Insomma, a momenti svenivo. Tutti. La prendi male, la prendi troppo male, Tino. Sì, è un disastro, ogni anno è così. Quindi, perché l'altra volta erano ancora spente, questo invece era acceso. Esatto, questo era acceso e è stato un trauma forte. Intermittente o fisso? No, fisso assolutamente, una cosa bestiale, sembrava un faro di quello degli aerei. Tino, io ti avviso, lo sai che arriveranno anche i Babbo Natali? Lo so, sono preoccupatissimo, infatti. Quelli gonfiabili, quelli che si arrampicano. Oddio santo, vabbè, ma quelli magari con un fucile qualcuno lo sa. Oh, ma... Dino, buon proseguimento di giornata, accompagnami i clienti e digli di ascoltare Rock FM. Ciao. Ciao, un abbraccio a tutti. pensare che dopo un'ora e mezza di diretta il mio fisico inizia a cedere, se non fosse che arriviamo al momento clou della trasmissione ed è lì che è tutto in discesa, pane, burro e rock and roll. Ma è sempre così. È sempre così, caro Ariel. C'è fatto sulla S oggi. La S mi piace tantissimo. Vabbè. Facciamo un test attitudinale, ne ho qua uno della redazione. Sì, rianima quando la sento fare il test attitudinale. Andiamo a parlare di un personaggio bassino come lei, il chitarrista degli AC/DC, Angus Young. Chi, scusi? Il chitarrista degli AC/DC, Angus Young. Ah, Angus il giovane. Esatto, sì. Inconfondibile per il suono della sua mitica sei corde, ma anche per un particolare vestito che utilizza sempre nel corso delle sue esibizioni. Voi là fuori, è semplice, ricordate come si presenta al pubblico Angus Young, il chitarrista degli AC/DC? 3 ipotesi possibili. Prima opzione: Angus Young si presenta vestito da donna. Ma dai, può essere. Chissà. Oppure: Angus Young si presenta con l'uniforme scolastica della sua scuola e o liceo. Può essere. Oppure: ipotesi C, terza ed ultima: Angus Young si presenta vestito da diavolo. Decidetelo ora, decidetelo subito. Come si veste Angus Young per andare a suonare? Prendete eventuali appunti. La soluzione, come al solito, ve la diamo dopo la risposta a tra poco.